suppongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Caro Parenzo, la cosa più incredibile di questi giorni, di queste giornate in cui si è parlato molto di Genova, dell'alluvione, eccetera, eccetera, è quello che è uscito fuori in queste ore. Cioè dire il fatto che alcuni dirigenti del comune di Genova, sono stati premiati, hanno ricevuto dei premi. Messa in sicurezza del territorio, un dirigente ha avuto 17.614,53 euro. Messa in sicurezza del territorio, primo. Interventi di adeguamenti idraulici, 9.405,44 euro a un altro dirigente. Opere idraulico-sanitarie a un altro dirigente, 6.131,27. E infine oltre 7.000 euro, per l'esattezza 7.171,74, a un altro dirigente per mitigazione del rischio idrogeologico per gli edifici. Uno di questi dirigenti si chiama Bocchiardo, senti cosa dice. Io non posso conseguire un premio per fermare l'acqua con le mani, e questo, se io avessi avuto un obiettivo di questo tipo e io avessi dichiarato di averlo raggiunto, io avrei commesso un falso gravissimo, e non è questo il mio lavoro, è quello di lavorare. Mitigare il rischio sì, però è tra gli obiettivi. È quello che ho fatto. E meno male che ha mitigato il rischio questa, meno male che ha mitigato il rischio. Oh, secondo Grillo siamo Secondo Grillo siamo sommersi dalla peste rossa. Devono andare via immediatamente. Siamo sommersi da questa peste rossa da tutte le parti. Ora, come al solito Grillo dice devono andare via tutti, però c'è una cosa, non è che a Genova e dintorni ha amministrato lo Spirito Santo negli ultimi 40 anni, cioè a Genova e dintorni ha amministrato la sinistra italiana, diciamo la verità, nelle sue multiformi diramazioni e trasformazioni, cioè negli ultimi 40-50 anni, tranne un piccolo periodo alla regione, ha amministrato la sinistra italiana, questa è la realtà, per cui sempre a parlare dei grandi modelli di amministrazione della sinistra italiana, beh, in questo caso no, amici miei, no. Un po' di robe da Grillo, dai, un po' di robe da Grillo del weekend grillino in piazza. Iniziamo dall'euro, dai, il referendum per uscire dall'euro. Qualcuno dice una iniziativa politica comunque che farà parlare il movimento, eccetera. Non è un referendum in realtà, è una raccolta firme. A mio parere non porterà da nessuna parte. Ma certo. Dobbiamo uscire dall'euro il prima possibile. E allora, dato che io non sono quello che decide, lanciamo stasera un referendum consultivo. high like smoking lightning. Every metal thunder. Oh, poi c'è l'esercito, eh? L'esercito per fermare i politici, l'esercito per fermare Renzi. Io vorrei capire adesso, fra poco interrogheremo una persona su questo, se chiamare l'esercito significa qualcosa di concreto oppure è una butade, una roba da comico, da grande protagonista, mattatore del palcoscenico. E dobbiamo ancora morire così? E quartieri che si allagano e sottopassi allagati. Questa gente va fermata con l'esercito italiano, perché l'esercito deve stare con gli italiani. E poi ancora usciamo tutti dal Parlamento. Da domani uscite tutti dal Parlamento e fate le cose che fate in Parlamento su una piazza di Roma, vengo anch'io, ricostruiamo tecnicamente gli scranni del Parlamento e fate quello che fate in Parlamento davanti ai cittadini, porca puttana, vengo anch'io, lo facciamo. Il nostro amico Salvini, Parenzo, è a Mosca, eh? È a Mosca, è addirittura in Crimea, si è spostato da Mosca alla Crimea. E bisognerebbe raccontare questo viaggio del leader della Lega nei dettagli. Innanzitutto ci racconta una cosa, Salvini, in questi suoi comunicati che fa via internet, che a Mosca non ci sono né lavavetri né mendicanti. Senti. Cari amici, Piazza Rossa, Mosca, città pulita. Non c'è un mendicante, non c'è un lavavetri, non c'è un rom, non c'è un clandestino, non c'è un rompiscatole. Di notte alle 2 le ragazze prendono la metropolitana e tornano a casa tranquillamente, senza il terrore. La polizia c'è, discreta, ma fa il suo lavoro e se sbagli paghi. Allora, nell'ordine, non ci sono clandestini, non ci sono rom, non ci sono mendicanti, non ci sono lavavetri e soprattutto le ragazze fino alle 2 di notte possono girare liberamente senza correre alcun rischio. Secondo me ha visto. I criminali sono al governo, per forza. No, vabbè, lascia perdere i criminali. Secondo me ha visto però un'altra Mosca, diciamo, ha visto una Mosca, non è che adesso a Mosca sia l'Eden. A parte che sono delle zone pericolosissime. Appunto, Mosca, cioè, se uno. Lo dice chiunque, lo dice chiunque. Comunque, volevo prima dirti una Aspetta, cosa. Aspetta, che c'è? Dimmi. No, dimmi, devo dimmi. Dirtela perché ce l'ho qui, poi ne parleremo fino alle 21.50. Dai, dimmi, no, 20.50. Ma uno, no, 21.50, ma uno, ma può essere credibile uno che parla da una gru? Cioè, partiamo anche da questo, perché sennò. Vabbè, ma quella è la scena, dai, quella è la scena, dai, ma che c'è? Ma tu ce lo vedi Berlinguero e Einaudi. Ma chi se ne frega, meglio, è roba vecchia, no, quella, questa è roba nuova, questa è roba nuova. Ma quello è teatro, allora va benissimo. Ma certo, il teatro della politica, ma abbiamo con noi, stai zitto un attimo, abbiamo con noi Mario Michele Giarrusso, cittadino, buonasera, ci sono riuscito. Buonasera a voi. Ci sono riuscito finalmente a chiamarla cittadino. Sono occupato per i cittadini della Crimea. Perché? Vuoi vedere che gli va a finire come i poveri cittadini del nord della Gran Bretagna? In che senso, scusi, per la sfiga che porta Salvini, dice lei? No, l'ha detto lei, perché dai, io mica dico. No, però l'hanno fatto, ma l'hanno già fatto il referendum lì, certo. Ma non si sa mai con Salvini, uno che. Ma guardi che adesso a voi. Si sa che vede a Mosca. Però scusi, Giarrusso, cittadino Giarrusso, Robespierre Giarrusso, a lei piace moltissimo la ghigliottina, diciamo la verità. Molto, molto. È vero, questo soprattutto quando sento certe cose alla radio, cioè cosa? Mano corre veloce la ghigliottina, non certi programmi che fanno riferimento a degli oggetti volatili. Vabbè, adesso ci vuole ghigliottinare noi, ma cioè. Assolutamente, ma chi l'ha detto? Voi lo stai dicendo, lo pensate. Però scusi, Giarrusso, lei non può trattare male la Lega, perché la Lega sulla questione dell'euro può diventare un vostro alleato, cioè avete le stesse. Perché no? Avete le stesse posizioni della Lega sugli immigrati? Sì, avete vedere quante volte si votano assieme alla maggioranza e assieme a Forza Italia, andate a controllare. Comunque no, mai con la Lega, voi non sarete mai alleati della Lega. Ma alleati no, assolutamente. Invece staniamo tutti quelli che sbraitano al vento contro l'euro e poi sono tutti allineati e coperti. Addirittura ci sono degli scellerati che lo hanno voluto, che hanno firmato le cose, votato le cose più indegne, tipo il fiscal compact. Ma lei è contro, lei per l'uscita buona. Immediata dall'euro, mi faccia capire, lei per uscita. Guarda, noi abbiamo un problema, noi abbiamo una moneta senza uno Stato. Vabbè, ma d'accordo, questo lo sappiamo. Noi abbiamo uno Stato senza moneta, che è l'Italia. Questo è un problema che dobbiamo risolvere, ci dobbiamo riprendere la nostra sovranità. Ah, riprendere la nostra sovranità. I cittadini devono pronunciarsi su questo. Vabbè, ma che vuol dire? Ma lei lo sa che non si può fare un referendum del genere, no? Ma chi gliel'ha detto? Nell'89 è stato fatto. Attenzione, noi non stiamo raccogliendo le firme per il referendum, noi raccogliamo le firme per una legge di iniziativa popolare per poter fare un consultivo. Nell'89 è stato fatto così. La legge di iniziativa popolare per fare un consultivo. Vabbè, ma arrivederci, grazie. Ma nell'89 è stato fatto così. Buonanotte. Non se lo ricorda. Sì, ma campa cavallo, Giarrusso. No, attenzione, guardi, la legge possiamo depositarla anche noi, siamo 150 in Parlamento. Il problema è un altro. Qual è? Il problema è coinvolgere i cittadini. Per presentare i cittadini legge già sanno popolare, tutto. Aspetti, bastano 50.000 firme. Noi non abbiamo intenzione di raccogliere 50.000 firme. Noi abbiamo intenzione di raccogliere molte più firme in modo che siano pesanti in Parlamento, che ci sia la manifesta volontà. Ma lei è per uscire domani mattina? Lei è per uscire domani mattina? Se fosse possibile uscirebbe domani mattina? Ma io credo che l'euro ci abbia portato soltanto danni, ma non lo credo ormai io per mia scienza, ma semplicemente perché i maggiori economisti ci stanno dicendo questo. Noi senta con una l'euro cosa. Abbiamo pagato il conto della ricchezza altrui e sappiamo anche chi è che si è arricchito con l'euro. Ma... noi non ci siamo arricchiti. Ma l'esercito? Quando lo facciamo allora, muovere? L'esercito, guardi, l'esercito è una bellissima provocazione di Grillo. Lei lo sa provocazione. Quando è stato utilizzato l'esercito nel nostro paese? In Sicilia contro la mafia, in Campania contro, e allora? Contro la camorra. E lo dobbiamo utilizzare contro la corruzione. Ma che vuol dire l'esercito contro la corruzione? Ma che vuol dire l'esercito contro la... A parte che... Lei sa quanta gente... Lo so, poca gente, poca gente, poca. Quanti, lo so, poca, uno, due, non mi ricordo, me l'ha detto l'altra volta. 42.000 detenuti, ci sono soltanto 8 persone 8. In galera per corruzione. Però scusi, Giarrusso, che non ci vuole l'esercito Renzi, per ho capito, Renzi si riferiva ai politici, cioè Renzi, Grillo, si riferiva ai politici, a Renzi. Vede che subito l'associazione di idee che le viene in mente quando parliamo di corruzione e al nostro caro Presidente del Consiglio. Ma quello che c'entra con la corruzione? Ma che c'entra la corruzione con Renzi? Su, dai, Giarrusso. Però scusi un attimo, io voglio capire, l'esercito per fermare Renzi, che vuol dire? Che bisogna andare mandare l'esercito a Palazzo Chigi? Bisogna... No, ma assolutamente. Cioè l'esercito si deve ribellare. È una figura retorica per dire che bisogna intervenire con forza e rapidamente, prima che distruggano tutto. Con forza come cosa? Vogliono fare con lo Sfascia Italia, no? Vabbè, ma lei quello... pensi, ma lei non pensi, si può sono uno chiamare malati, le... mi ascolto, sono talmente malati, voi parlavate dei danni che ha fatto la politica a Genova, creando i morti, i primi, quelli di 2 anni fa e l'ultimo, quello di ora, perché sono morti della cattiva politica, sa cosa gli è venuto in mente? Di utilizzare la sciagura che è caduta sulla testa dei genovesi per colpa e per la politica, perché fare che cosa? Gare d'appalto senza limiti, senza controlli, senza certificati. Ma quello chi l'ha detto? Ma non è vero. L'ha detto un sottosegretario. Ma magari ci fossero, magari fossero più veloci. Zanzara 800 24 00 24, con il cittadino, non mi sto sbagliando, incredibile, non mi sbaglio, non mi sbaglio, cittadino Robespierre. Lei chi metterebbe sotto la ghigliottina, Giarrusso? La prima persona che metterebbe, voi due? Vabbè, noi per primi già lo sappiamo, per primi noi, l'informazione cattiva, no? L'informazione cattiva. Quelli avete detto dagli italiani. Avete detto, no, ne avete detto di tutti. Sotto, dovevi mettere sotto la ghigliottina accanto, come dice Boia, per aiutare. Beh, no, dice Boia, no, tu lo faresti, dice Boia, Parenzo, paresi. Sì, dice... ce l'ho vedo. Sorridere mentre scende la ghigliottina. Io mai né quello né farei la tricoteuse, cioè quelle donne che stavano lì a far la maglia e a vedere le teste rotolanti. No, tutt'altro, io sarei quello che andrei lì sul palco a liberare. Lei chi mette sotto, Gianrusso? Chi mette sotto per primo? Napolitano? Ma non c'è bisogno, quello si fa poco, insomma, andrà via da sera. Beh, tra poco andrà via. Intanto sta là, c'è l'udienza del 28 ottobre dove non va. Almeno facciamo arrivare al 28, vediamo. Vabbè, che vuole fare prima del 28? Marina e Bagarella avevano diritto ad andare al Quirinale? Ad andare a squinare, se c'è una Napolitana, insomma, vabbè, ci possono andare in tanti. No, non cioè, ci possono andare pure Rine e Bagarella, dice lei. Allora, mi ascolti, il problema è un altro. È un diritto costituzionalmente riconosciuto agli imputati di partecipare alle udienze. Dunque, noi abbiamo un'udienza in cui è precluso a degli imputati di partecipare. Quindi, che cosa succede? Potrebbe esserci una nullità. Vabbè, ora, quello io lo sappiamo. Sono malpensante come voi, difatti in questo penso che ci intendiamo, immagino una cosa, che se questo processo finisce con una condanna, sarà annullato per questo vizio. Se questo processo finisce con una assoluzione, ovviamente nessuno parlerà più di questo vizio, ovviamente, è chiaro. Vabbè, ho capito. Dunque, secondo lei, Rine e Bagarella dovevano presenziare all'udienza, giusto? Ma guardi, non è una questione, non possiamo fare questione ad personam. Se lei fosse stata fatta il diritto di partecipare a un'udienza in cui si escute un testo. Dunque, Napolitano è stato privilegiato da questo punto di vista. Ma non solo da questo. Vabbè, no, ma questo lo sto dicendo. Ma non so da questo. Però lei, scusi, l'ha paragonato prima a dei mafiosi, dice se c'è stato... No, ha paragonato, ma non offendiamo i mafiosi che hanno la loro dignità, per piacere. Addirittura, sì, no, vabbè, no, Gianrusso, no, su. No, sto scherzando. No, sta scherzando. Ma io l'ho paragonato a dei mafiosi. Come no? Lei l'ha fatto. Ma quando mai? Io ho detto che non i diritti sono uguali per tutti. Non giochi con le parole. I diritti sono uguali per tutti. Comunque, quindi, se il Parlamento è inservibile, come ha detto il suo leader Grillo, lei era sul palco lì, ho visto che faceva Vuda la vittoria, ballava alla fine. Com'è la canzone che ha cantato Grillo? La cantava pure lei, Gianru? Sì, fantastica, quella di Blue Brothers. Com'era? Non mi ricordo le parole. Ma come non si ricorda? Molto bella, era molto bella. No, non mi convengo. Vabbè, sono sicuro che voi sovvengono le parole, vero? Scusi, Gianrusso, ma io voglio capire, se il Parlamento allora è inservibile, perché lei non va via dal Parlamento? Mi ascolti, il Parlamento è reso inservibile da un governo che attenta al suo funzionamento, è questo che noi diciamo. Noi vogliamo rilanciare l'azione del Parlamento. Ma Grillo dice là. Fuori dal Parlamento, però. Fuori dal Parlamento. Lui usa una figura, un'altra figura retorica. Vabbè, tutte figure retoriche. Noi, ma è chiaro, è un discorso alto, anche se usa un profilo basso, ma il discorso è importantissimo. Dice: dovete fare vedere ai cittadini quello che succede là dentro, per questo dobbiamo farlo nelle piazze. Questo è il suo messaggio. Comunque lei rimane convinto che Berlusconi è meglio di Renzi, peraltro è la stessa cosa che ha detto Grillo, ce l'aveva detta prima anche lei qui alla Zanzara, eh? Meglio Berlusconi di Renzi. Basta girare le parole, cambia il senso. Io ho detto che Renzi è peggio di Berlusconi, che è una cosa tantino diversa. Ma che diverso, è uguale. Scusami, Gianrussino mio, è interessante quel che dici. Cioè, il capo dello Stato ha violato sostanzialmente la maggioranza. Capo dello Stato, attenzione. No, stava parlando di Napolitano. Hanno deciso altri. Non è che qua Napolitano ha tanti difetti, ma questo non ce l'ha, non ha deciso lui. Però altri hanno deciso che non dovessero presenziare degli imputati. Anche Mancina aveva chiesto di presenziare, mi pare. Anche a lui è stato negato. Vabbè, Gianrusso, quindi, fuori dal Parlamento, a capo dell'esercito, fuori dal Parlamento, a capo... Ci vanno. Quindi dico, non è che c'è tutto questo scandalo. Come ci vanno? È che Berlusconi quante volte ci va? E beh, che c'entra con... Non è pregiudicato, condannato. Ma che c'è? Mica è come Rine e Bagarella. Ecco, qua veramente si potrebbero offendere un mafioso, perché su Gianrusso le stragi, ma in genere non vanno con prostitute minorenni. È stato assolto per quel reato. E lo faccio da parecchio. Amici miei, siamo al top, eh? I'm tutte le discussioni su Genova, su questa burocrazia che uccide, perché poi davvero ci uccide la burocrazia. Cioè, la burocrazia italiana è una cosa spaventosa. Sia a Genova lo si è visto, dove i TAR bloccano i lavori, poi in realtà i politici potevano farli andare avanti lo stesso. Comunque ci sono sempre di mezzo i TAR e le scartoffie, i ricorsi, i magistrati che si oppongono, qualsiasi cosa. Adesso entro il 16 bisogna pagare una tassa, sono stato un quarto d'ora al telefono col mio commercialista per la TASI. Una parte la devono pagare i proprietari, una parte gli affittuari. Se i proprietari pagano tutto intero, no, tu devi comunque pagare la tua parte 8 euro, 12, 20. Una cosa complicatissima, una vergogna, l'ennesima vergogna italiana. Però al di là di tutto questo... Benvenuto nel mondo, eh? No, che benvenuto nel mondo, ogni anno... Avevi, come dire, no, avevi no. La servitù che no, ma quale servitù? Ogni anno faccio le cose io, non rompere i coglioni. Ogni giorno a fare le code alle poste, agli sportelli, richiamato anche dal signor Cruciani quando sono in coda agli sportelli e sono nel paese reale. Lui adesso oggi si sveglia perché è stato 10 minuti al telefono col commercialista perché la servitù dove è finita? In base all'articolo 18 le mandate ma via che prima? Faccio tutto io, eh? Non credo. Ma che una volta che sono venuto a casa tua c'era un signore, un poverino, un cingalese, un certo, cingalese che certo. Io ho assistito a una cosa tremenda che puliva il bagno, povero cingalese, certo, chinato per terra certo. Con una catena ma, legata a un una catena sicone. no. Sì, c'era una catena. No, mi dice, ma quale catena? Dico, dov'è Crucio? Cioè, dice, dottore, non c'è, torna dopo. Ma quale catena? Che cazzo sì, dici? Sì, con una catena. Dice, mi può liberare? Ma dico, guardi, se non so dov'è, adesso la libererò. Ma che dici? Dottore, dice, sempre traffico, e dico sì, ho capito, però dicevo che nonostante questa Italia di merda, che ci rompe le balle con la burocrazia, ci sono racconti come quelli di Gino Paoli. Gino Paoli è uno che ha avuto nella sua vita sempre un sacco di donne, una marea di donne. Senti che cosa dice? Dice, se hai due donne in contemporanea, cioè se hai una donna ufficiale o un amante, oppure due donne che magari si conoscono, perché ci sono quelli come Pupo, per esempio, che hanno due donne in contemporanea, no? Se hai due donne è meglio che... Senti. Nel 64 nascono i suoi due primi figli, uno dalla moglie e l'altro da Sandrelli. Assolutamente non pensabile amare due donne. No, io non era questa la domanda. Non è mica una situazione banale da gestire. No, è una situazione tremenda. Infatti di quei figli, se hai due donne... Chi delle due donne se n'è andata? Cercano, che, cercano di fare in modo che siano tutte e due nello stesso posto, perché sennò sono troppi viaggi. Se hai due donne è meglio che abitino vicine nello stesso posto, altrimenti troppi viaggi. Gino Paoli e l'orgasmo. Io mi sono chiesta, ma che cos'ha di diverso una prostituta da noi donne normali che ci togliamo le mutande solo per amore? Non volevo descrivere il momento dopo, volevo descrivere l'orgasmo. Quindi, che è uguale, che sia con una prostituta, esattamente, che con una... è la stessa cosa. Cioè, poi ci saranno rimaste male. C'è però, un momento che è l'orgasmo, che sia dell'uomo che sia della donna, che non ha niente a che fare con l'altro. È un fatto privato, personale. È una proiezione in una dimensione diversa, dove sei tutto e non sei niente. È un momento che non ha più contatto con niente e che ha contatto con tutto. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuovo diluvio su Genova in ginocchio, treni aerei fermi, ma la situazione è critica anche nell'entroterra. Campo Ligure e Rossiglione, i paesi più colpiti. La procura apre un'inchiesta anche per disastro colposo, polemica per i premi di migliaia di euro ai dirigenti che avrebbero dovuto prevenire i disastri. Alluvione anche tra Liguria, Piemonte ed Emilia, allagata Parma, disperso un ragazzo, tutti i ponti della città sono chiusi e uno è crollato. Renzi all'assemblea di Confindustria, nella legge di stabilità taglio dell'IRAP per 6 miliardi e mezzo, riduzione delle tasse, manovra da 30 miliardi, contestazione della FIOM. Camusso dopo la manifestazione del 25 ottobre pronti anche allo sciopero generale, Banca Italia avanti con le riforme, giù spese e tasse. Il sinodo sulla famiglia, in un documento l'invito a scelte pastorali coraggiose nei confronti dei divorziati risposati, delle coppie conviventi e sulle unioni omosessuali. Primo caso di contagio da Ebola in America, un'infermiera che ha curato un paziente arrivato dalla Liberia. A Dallas, decine di persone sotto controllo, paura anche in Italia. Vogliamo rivalutare quello che disse la Zanicchi il 30 aprile? Mi ricordo, era Agorà, a proposito di Ebola. A proposito, certo, lì la buttava sul catastrofismo, gli immigrati, eccetera. Però attenzione, il 30 aprile disse una cosa su Ebola e se la mangiarono viva la povera Iva Zanicchi e con lei alcuni esponenti successivamente della Lega. Iva Zanicchi ad Agorà, 30 aprile, è meglio ricordare alcune cose. Perché adesso che c'è l'emergenza Ebola e si dice addirittura, qui bisogna stare molto attenti, si dice addirittura che si potrebbe trasmettere per via sessuale fino a 2 mesi dopo la guarigione. Cioè, se uno è guarito, metti che tu incontri qualcuno malato di Ebola, per 2 mesi dopo la guarigione, che è stato malato per 2 mesi, se ci scopi, se ci vai a letto, se hai un rapporto sessuale, puoi prenderti l'Ebola, l'Ebola trasmesso via sessuale, per via sessuale, una cosa pazzesca. Zanicchi, non è vero che non portano malattie, è inutile che lui si scaldi, perché vada negli ospedali. Io ho parlato, ho avuto recentemente, va bene, purtroppo, abbiamo sbagliato noi a non chiamare un immunologo oggi in studio e mi dicono che è drammatica la situazione. Abbiamo di nuove malattie che avevamo debellato da tempo. Va bene, ho capito. Ricordate questa parola, Ebola sta arrivando. C'è il colera. Allora va bene. Voi altri comunisti siete buoni. Dai, avanti, adesso i comunisti, Ebola e tutto. No, ma anch'io all'epoca feci molta ironia su questo, Non è che tu poi hai esagerato, come al solito, Parenzo, tu avevi esagerato contro la Zanicchi, contro i leghisti. Adesso no, dovresti rimangiare tutto, dovresti chiedere scusa, Che non solo rivendico quello che ho detto, chiedi scusa alla Zanicchi, chiedi scusa. Non chiedo scusa proprio a un cazzo di nessuno, perché invece in realtà quello che hanno fatto queste persone è semplicemente giocare sulla paura. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Anziché, dai, su. Anziché porsi il problema, anziché una classe, ma non me ne frega niente, ma non chiedo scusa a nessuno. Devi chiedere scusa alla Zanicchi, Ma non chiedo scusa, né all'epoca l'hai presa per il culo, invece Ebola è vero che sta arrivando, speriamo che non arrivi. Ci sono contagi in America, può darsi che ci siano contagi in Europa. Ma sta arrivando per responsabilità politica, non perché c'è gli immigrati. Anzi, ci ma da dove viene Ebola? Scusa, da dove viene? Se da dove viene? Salvati, da quale continente viene? Da quale continente viene Ebola? Da quale continente? Rispondi, da quale continente viene Ebola? Ovviamente dall'Africa. Ho detto tutto. Ovviamente dall'Africa. E dimostra che anche laddove ci sono molti controlli, cioè gli Stati Uniti, dove non è facilissimo entrare, che peraltro sono tutti infermieri, le persone malate, cioè gente che andava a curare i malati là. Questo dimostra che ci vorrebbe molto più Mare Nostrum, anziché meno. Altro che, ci vorrebbe molto più. Tu sei alla malattia totale. Vogliamo ricordare quello che ha detto Giarrusso prima da noi? No, ma Giarrusso ha delle cose molto gravi. Ha detto che se uno paragona... Con la tua complicità. Se uno paragona Napolitana ai mafiosi, i mafiosi potrebbero offendersi. Giarrusso, senatore 5 Stelle, cittadino. Appunto. 5 Stelle. Appunto. Napolitano è stato privilegiato da questo punto di vista. Ma non solo da questo. Vabbè, no, ma questo lo sto dicendo. Ma non però. Solo da questo. Però lei, scusi, l'ha paragonato prima a dei mafiosi, dice se c'è stato. No, beh, io come lei no? Ha paragonato. Non offendiamo i mafiosi che hanno la loro dignità, per piacere. Quindi, no, sto scherzando ovviamente. Ma io l'ho paragonato a dei mafiosi, per carità. Lei l'ha fatto. Io ho detto che i diritti sono uguali per tutti. I diritti sono uguali per tutti. Poi ci sono altre due splendide notizie, poi vi aspetto, 800 24 00 24. Le splendide notizie sono queste, caro Parenzo. Beh, meravigliose queste notizie. La prima è questa: meditate, gente. Secondo una nuova ricerca canadese, gli stati americani più religiosi e conservatori sono anche quelli che cercano più spesso sesso online. Beh, cioè, certo, dove ci sono gli stati conservatori che magari vanno a spiare dal buco della serratura nelle lenzuola delle persone, sotto le lenzuola delle persone, sono invece dove smanettano online sul sesso. E l'altra cosa straordinaria è che sempre in America hanno scoperto che i maggiori attivisti anti-gay, tra i maggiori attivisti anti-gay, in realtà erano tutti froci. Tutti froci, cioè i maggiori attivisti anti-gay, quelli storici, tutti froci. Allora, innanzitutto la zanzara è diventata un programma dove ti prendono dal conduttore, il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? In tutti i sensi. Allora, questa sera cena tra Berlusconi e Luxuria, amici miei, eh? Questa sera cena ad Arcore tra Berlusconi e Vladimir Luxuria. Storace, eh? Francesco Storace scrive: stasera Berlusconi vede Luxuria. Vedere e non toccare, mi raccomando. Intanto il nostro sindaco, nonché parlamentare europeo Buonanno, a proposito di Ebola, Parenzo, ascolta bene questa cosa, a Borgo Sesia controllo sanitario a tutti gli africani e a tutte le persone provenienti dall'Africa. Andiamo a Prato, Paolo. Buonasera Cruciani. Dimmi. A lei e a Parenzo. Vai. E niente, io vorrei dire una cosa e una provocazione. La cosa, ho sentito oggi al telegiornale che nel comune di Genova sono stati premiati dai 7.000 ai 17.000 euro quei professionisti del comune che si interessavano per il dissesto geologico. Mi sembra una vergogna. Prima cosa. La seconda cosa, vorrei dire, per cui hanno premiato quattro dirigenti del comune, fino a 17.000 euro. Esatto. Fino a 17.000 euro per avere fatto bene il loro lavoro nel campo del recupero del territorio, gli interventi per gli adeguamenti idraulici, le opere idraulico-sanitarie, la mitigazione del rischio idrogeologico, tutte le cose che abbiamo visto in questi giorni, no? Davvero, davvero. Allora? No, niente, mi sembra una vergogna la lista, poi comunque i soldi si pagano a noi. La provocazione invece era, per quel poco che conosco la Costituzione italiana, secondo me qui non ci se ne esce. Io proporrei una monarchia, perlomeno il monarca. Una monarchia, dice lei, una monarchia. Ma siamo praticamente in una monarchia già, comandano in due, certo, una monarchia nella butade politica, nella provocazione politica, una diarchia, napolitano Renzi, ma con un grande monarca che è napolitano. No, ma ecco, senza passare per la Costituzione, direttamente, come il re, un re che si leva la mattina e dice: te a casa, e questa legge la si cambia, chi ha la pensione di 90.000 tu la persa. In questa maniera, se no qui non ci se ne esce. Cioè, decide tutto uno senza Parlamento, dice lei. Sì, qui se vuoi presente, io abito a Prato. Che succede a Prato? Che c'entra che lei abita a Prato, scusi? No, c'entra tanto, noi ci sono 70.000 cinesi, quindi dire sull'immigrazione si dovrebbe dire la nostra. Beh, 70.000 cinesi portano anche dei quattrini a Prato, però, non voglio dire niente. È vero, adesso li portano, se gli giocano, se gli riportano via anche molto. Noi ci sai, transfer money più potenti di tutta Europa, penso. Vabbè, qualcosa spenderanno lì a Prato, sì, i cinesi. Ma, insomma, ma lei che vuole fare? Li vuole cacciare tutti? No, per l'amor di Dio. Io però pago le tasse, io ho il cassonetto del... Beh, anche loro le pagano le tasse, o no? Io direi di no. Ah, non pagano tasse? Sono tutti evasori fiscali i cinesi a Prato? Non mi pare possibile. No, questo l'ho detto io, E dico che a Prato è l'unica città con la quale ci sapeva il cassonetto dell'immondizia e il lucchetto. Perché se te lo lasci senza lucchetto la mattina lo ritrovi proprio. Per colpa dei cinesi? Eh sì, sono tutti ritagli di tessuto e loro buttano, loro non hanno il servizio, si adoperano per la... Va bene, grazie Paolo. Luigi, Roma. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo chiedervi, siete stati a Circo Massimo? No, non ci sono stato a Circo Massimo. No, io ho visto. E vabbè, allora? ho fatto una tre giorni, niente, sì, volevo fare delle considerazioni. Dimmi. Una tre giorni, diciamo, praticamente non so cosa sia servita, una festicciola, una cosa così, ma c'è stato un momento, mi sembra sabato verso le 7, di cui quattro ragazzi sono saliti sul palco e hanno chiesto delle cose molto serie, 5 minuti, scomparsi e non si è parlato più niente. Questi ragazzi avevano chiesto innanzitutto dove andavano a finire i voti in rete, chi li gestiva e chi era lo staff, nome e cognomi, e di presentarsi. Invece, fatta questa denuncia, che era l'unica cosa che poi questa festa doveva servire, cioè agli attivisti di dire la propria, allora, di confrontarsi, non se ne è parlato più niente, come se fosse, si è continuato in musica, si è continuato. E dunque, in, che vuole dire con questo? Passeggiate e via dicendo. Niente, volevo dire che se un attivista deve andare, partire da Milano, partire da Torino, perché rappresenta un po' tutta l'Italia, venire al Circo Massimo per andare dietro ai vari di Battista, Di Maio, Taverna, farsi le foto, ma che cazzo d'Italia è questa, insomma? Ma non lo so, guardi, io ho una sorta di repulsione quasi fisica per le adunate di partito, per cui figuriamoci se io vado adunate, manifestazioni, adunate, quello che è, adunate. Adunate è un termine del ventennio, diciamo. Vabbè, ma adunate per dire manifestazioni, dai. No, invece io ho grande simpatia anche per il Movimento 5 Stelle quando si raduna così a fare, meno per il suo leader. Questo signore però dice una cosa, io l'ho seguita anch'io in streaming tutta quella roba, mi è sfuggita questa roba dei ragazzi che hanno fatto questa denuncia. È curioso, ha fatto bene a dirlo da noi. Bene. Vabbè. Stefano Lodi. Stefano da Lodi. Sì, ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Volevo fare una piccola denuncia, nel senso, dal punto di vista del mondo eterosessuale, nei confronti di questo tentativo di egemonizzare sia dal punto di vista sociale, politico e culturale anche chi non condivide la, cioè, secondo lei c'è un'egemonia da parte degli omosessuali? No, c'è il tentativo di egemonizzarlo, e infatti in tutte le declinazioni in cui si esprime l'omosessualità, almeno quella maschile, che tra l'altro è conflittuale anche il proprio interno, perché si passa dal Finocchio al Frocio alla Checchesterica come Parenzo, che fenotipicamente la rappresenta benissimo, che sono violenti nell'imporre le proprie, sono intolleranti, perché non riescono a capire che un pensiero che è eterosessuale, quindi è la maggioranza, possa avere i suoi diritti, le sue ragioni. No, però scusi Steve, innanzitutto lei ha detto una cosa, che Parenzo è una checca isterica, innanzitutto non è omosessuale, ma va bene lo stesso. Secondo me sì, perché è omosessuale nella sua espressione, sia verbale, fonetica. Fonetica. In televisione poche volte si vede lontano un chilometro che non è effettivamente non è un maschio etero al 100%. Non è maschio etero al 100%, no, perché c'è una, perché lei dice che si vede, no? Si vede, sì, e poi, si soprattutto si sente anche dalla lingua. Anche verbalmente, una critica ogni volta che un pensiero si contrappone al suo. Che caisterica, vuoi rispondere? Che caisterica? Il tipico della checca. Io, diciamo, se dovessi giudicarlo sentendolo semplicemente dalla voce, dagli argomenti che utilizza, da quello che ha detto, lo definirei, ma non penso che sia così, una testa di cazzo, ma semplicemente così, perché lo sento dalla voce, da quello che dice, da questo tono che ha, lo giudicherei una testa di cazzo se usassi i suoi parametri. Siccome non voglio usare i suoi parametri, quindi non voglio considerarlo una testa di cazzo, ecco, non so se si è sentito abbastanza. Sì, si è sentito. Allora io non lo chiamerò testa di cazzo, semplicemente perché i suoi argomenti mi inducono a pensare che lui sia una testa di cazzo. Ecco. Stefano, io voglio capire una cosa. Dove è chiaro, è stato? Chiaro, Stefano? Un pensiero unico, no? Ma che c'entra il pensiero unico? Dovete pensare che il mondo, la maggioranza, vive emozioni, sensazioni che sono diverse dalle vostre. No, però le mie sono probabilmente le stesse. Io sono eterosessuale, ma non me ne frega niente, non è questo il punto. No, Giuseppe. Ma non ho capito qual è il punto, Stefano. Ma chi è che vuole imporre? No, ma chi è che vuole imporre? Io non mi sento. Non credo che i gay vogliano imporre. No, vogliano impormi. Questo tentativo. Ma quale tentativo? Tutte le volte che una persona esprime una lontananza dal fatto di non accettare che una coppia omosessuale adotti un bambino, che è legittimo, secondo me, e fa parte della stragrande maggioranza. Lei dice che viene insultata questa persona, cioè chi è contrario? Che insultata, ma che non sia permesso così liberamente di vivere a un bambino l'infanzia e la propria adolescenza. Ho capito, ho capito. In una comunità familiare che non rappresenta la normalità, la naturalezza, perché se io non posso correre 100 metri in 10 secondi, non vado a correre contro Usain Bolt, se non posso fare figli, non pretendo di avere dei figli. Vabbè, non è che i figli si possono accoppiare liberamente fra di loro, che tra l'altro nessuno glielo impedisce, senza pretendere di adottare dei figli e senza pretendere che tutti condividano questo tipo di situazione. Lo sai in che cosa sono d'accordo? Parenzo, paradossalmente sono minorati quelli che la pensano diversamente. Ma nessuno è minorato, Stefano. Il punto fondamentale, Parenzo, io do ragione all'ascoltatore su una cosa. Per esempio, il trattamento che viene riservato anche da parte di Roberto Saviano ed altri a queste sentinelle, no? Alle sentinelle, quelle che stanno silenzio manifestano. Ecco, questi qua dicono no, manifestano contro un diritto. Ma di che state parlando? Cioè, manifestano semplicemente un'idea di società che io respingo. Ma non è che non possono stare in piazza oppure manifestano qualcosa di estremo. Estremisto, manifestano la negazione di un diritto. Questi hanno tutto il diritto di stare in piazza in silenzio, rompono molto meno i coglioni rispetto ad altri che stanno in piazza e spaccano le vetrine, eccetera. Per cui non rompete le scatole a queste sentinelle, io sono contrario alle loro idee, però devono avere tutto il diritto di esprimerle. Grande ritorno alla Zanzara, Mauro Corona, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Mauro, come stai? Sto bene, sto benissimo. Prima di sentire me sempre bene, poi sempre male, No, corroborante sentire lei. No, ci diamo del tu. Diamoci del tu, dai. Parenzo, omaggia Corona? No, volevo chiamarlo l'altro giorno, perché bisogna che prima che arrivi la brutta stagione vada a fare questa arrampicata con lui in parete. C'è ancora un mese di tempo, possiamo farcela. L'arrampicata dobbiamo in farla. Parete? Ma che volete rischiare? Che mi faccia, perché una volta siamo incontrati l'anno scorso a Ortisei in montagna. Ma che volete e rischiare lui mi la ha detto, vita? Guarda, ti porto io in parete. Ma a fare quale parete? Ma non hai il fisico nemmeno per manco per fare 5 metri, figure del c'hai. Sono un grande camminatore in parete, di montagna. In parete, l'unica cosa di cui ho paura è come alle volte, comunque questa altitudine, come dire, il piantare i chiodi, quello mi spaventa molto, perché l'ho mai fatto. No, quello lo faccio io, non devi piantare niente, tu neanche grane, come fate sempre. Ecco, vedi. Lui mi ha detto che ha parlato su sua figlia che era piccolissima e quindi questo mi ha rassicurato. Guarda, lui ha parlato su sua figlia che aveva pochi anni, perché ma se Corona è matto mica è colpa mia, cioè, no, Corona è un saggio. Ma è saggio. Aprono la via che poi percorrono i savi. Quello è vero, caro Mauro, però il problema è un altro, che tu qualche volta nella montagna hai una certa dimestichezza. Parenzo è uno che non sa fare manco 5 metri, c'ha il fiatone, fuma, ha tutti i vizi del mondo. Dov'hai in montagna? Dai. Io ho sempre camminato, sai, amico mio. Ma tu che vizi hai, Mauro, invece? Come vizi? Ma insomma, avevo quello del bere, ma ho dovuto limitarlo. Fumare non fumo più. Quell'altro lo si deve smettere per forza, per questioni di età. Quale? Il sesso, dici? Sì. Ma no, perché? Quando scoprì che bevevo e fumavo, mi disse mio padre, era un cinico, un bastardo, infatti a genitori. Io ho avuto genitori normali, padre e madre, ma mi hanno massacrato, quindi forse era meglio se fossi stato adottato da due gay. Addirittura. Ma perché ti hanno massacrato? Mi disse, caro Mauro, ho saputo che bevi e fumi, sì, e allora mi fa imparare il vizio di andare a donne, che dovrai smetterlo anche se non vuoi, e quelli del fumo e del bere non li smetti più. Cioè è meglio quello di andare a donne, dici? No, secondo lui, perché dice quello lo devi smettere anche se non vuoi, ecco, era un'avvertenza la sua. Ma perché dici che era un cinico, un bastardo? Perché mi picchiava, mi legava al palo, mi dava olio di rincido. Mia madre ci abbandonò da piccoli, tre fratelli, il più piccolo aveva 6 mesi. No, bisogna vedere i casi della vita, non brontolare i gay, ma perché i gay no, poverini? No, ma sono d'accordo. Perché i figli li vogliono più bene che quello che mi hanno voluto a me mio padre e mia madre. No, ma io sono d'accordo con te, spesso c'è questa mistica della famiglia, no, che è il bene assoluto. Questa è la retorica vieta dei fasulli, vieta dei falsi, che come quelli che parlavano, come quello che voleva eliminare le prostitute, lo bloccarono con due. Come si chiamava quel deputato, il parlamentare? Cioè c'è questa la facciata, la famiglia è sacra, la prima che la battono, che scardinano, che uccidono la famiglia. Loro, quelli che sbraitano. Sì. Ma ti picchiava tuo padre? Altro che, mi è legato al palo con le corde, io e mio fratello che poi morì in Germania, e olio di ricino perché aveva delle reminiscenze del ventennio. Ma perché era fascistone? A quell'ora allora a Togliani erano tutti, poi lui l'era rimasta la nostalgia. No, ma era proprio il fascistone anche dopo, dici, no? No, dopo no, lei sì, ha cambiato bandiera, è stato anche comunista dopo. Vabbè, quello sai, quello molti, cioè. Però ha ragione Mauro quando dice che non è detto che una famiglia tradizionale, ecco, sta dicendo una grande cosa Mauro Corona, devo dire la verità, spesso litighiamo, però su questo ha ragione, cioè non è detto che una famiglia tradizionale, madre, padre, figli, disciplina, sia, come dire, il massimo del bene. Nel caso di Corona è stato il massimo del male. Ma in tanti casi, ma come fa? Guardate, vi dico una cosa che mi attirerò i funghi. I bambini appena nati dovrebbero essere sottratti ai genitori regolari. Perché dici? Perché come fa un bambino a non crescere razzista quando sente il papà che urla sporco negro a Balotelli durante una partita in TV? Come fa a non crescere violento quando sente il papà che dice alla mamma tu stai zitta sennò ti do un ceffone? Sono queste le famiglie che rovinano i bambini, sono le famiglie, quelle regolari. Sia chiaro una volta per tutte. È chiaro però Mauro che non è che tutti i padri no. Hanno cioè tu dici non tutti, ma Napoleone disse buona parte sì. Una buona parte tu dici hanno questa, i padri sono nefasti per i figli. Ma per forza, perché hanno le loro ideologie, i loro dogmi, le loro fedi, quello che ce l'ha col negro, che c'era un bambino che l'avrà con i negri, la volete capire? E dunque meglio sottrarlo, meglio portarlo via. È un paradosso per farlo certo, capire. Chiaro, ma chiaro. Andrebbero sottratti al... E poi ci sono anche altre cose, questa voglia di spaventarli, dell'orco, del mostro, della vipera, dei fulmini, dritto. Sono delle terie le famiglie per i figli, i bambini. No, ma un'altra cosa è questa che voglio dire a Mauro. Dunque tu avresti preferito alla fine essere adottato quasi o crescere in una famiglia magari di omosessuali, come hai detto. Assolutamente, ma avrebbero voluto più bene. Assolutamente. E non sarebbe cambiato nulla della mia vita, della mia etica, del mio modo di pensare, del mio modo di leggere, di fare o di scalare o di sbronzarmi. Capito Parenzo? Capito? No, ma è ineccepibile, ma noi lo sosteniamo. Io che sono uno di quelli che dice basta con questa retorica della famiglia, la sento ogni volta nelle trasmissioni televisive, certo. Bisogna aiutare le famiglie, bisogna aiutare le famiglie, i nuclei familiari, ma chi se ne frega? No, io voglio che aiutate anche le persone che sono da sole perché scelgono di stare da sole. Basta con questa cosa che la famiglia è il massimo della vita possibile. Non è vero, non è detto, può essere anche la tomba di ogni cosa, oltre che la tomba dei sentimenti, le frustrazioni e, come dice Corona, anche i cattivi insegnamenti. Insegnamenti per i figli, può essere la cosa più nefasta possibile alla famiglia. Corona sta tanto bene da solo su in montagna, per esempio, mica vorrebbe stare con una famiglia su in montagna, o sbaglio? No, io ho la famiglia, ma i miei figli sono grandi, sono adulti, ma ho cercato di non fare gli errori di mio padre, ho cercato di studiare come poter fare meglio di me, insomma io li ho cresciuti dicendo gli davo da mangiare ogni due giorni così capivano che il tonno non è necessario che si tagli con un grissino, lasci due giorni senza mangiare e mangi il tonno. Ma questo... la vita come scolpire, togliere per apprezzare, tirare via per vedere. Ma questo Alfano che vuole, che impedisce la registrazione dei matrimoni gay, come lo vede? Mi fa orrore una persona così. Orrore? Mi fa orrore. Vabbè, però... questa è colpa di Renzi, chi li ha messi lì? L'ha messi Renzi. È il governo con Renzi, sì certo, è il governo con Renzi. Incapaci degli ideologi, la pensano così, quindi la impongo. No, è perché non prende una... dice che adesso vuole fare questa legge sulle coppie gay, dice. A me sembra piuttosto incapace, come altri giovani che ha messo lì, quell'altra, come si chiama? La Boschi. Ha fatto una squadra, ha montato una squadra, le Cote Rosa, finché vuole, ma mi sembra chi vuole, ce n'è una che cosa delle forze armate, mi dico, la Pinotti sì. Ma che scherziamo, perché? Le forze armate che ci spassano via la Russia e l'America ci spassano via come scoreggia se vogliono, e questa qui ha in mano le sorti da... Ma è perché dici, perché è una donna, dici? No, non ha esperienza. Ah, perché non hai esperienza? Vabbè, non è che quando hanno esperienza sono molto più capaci degli uomini, ma non hanno esperienza. Ma non è che deve fare la guerra la signora Pinotti, comunque. No, non deve fare la guerra, ma ci sono tante cose. Per esempio, perché invece che fare le cose a Genova e fare aprire la via dell'acqua, comprano gli aerei F-35, perché non possono dire di no, che sono legati culo camicia a tutti gli altri. 30 di F-35. Allora Corona dice risparmiare sugli F-35 e investire a Genova. Un attimo dopo la pubblicità andiamo alla natura e l'uomo. Temi alti alla Zanzara questa sera, eh? Parenzo, sei contento? La natura e l'uomo. Poi dopo parliamo di altre cose, però. Ma no, da manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio oltretutto. Allora, ma io no, da manicomio è lei e tutta quanta la squadra che fa capo a lei. Ogni tanto ricevo su Twitter, Parenzo, dei messaggi, no? Oggi credo che sia successo ieri un incidente. Spara e ferisce ciclista ad una gamba, il cacciatore, puntavo a una lepre. Allora la gente mi tempesta quella che si chiama la timeline di Twitter o comunque la mail. Hai visto? Bisogna abolire la caccia. Ma che c'entra con l'abolizione della caccia? Gli incidenti possono accadere anche nella caccia, anche nella caccia. La caccia è una roba antica che va mantenuta. Corona, cacci anche lei ogni tanto. Prenda anche lei un fucile, si mette a cacciare anche lei. Io ho cacciato fino a pochi anni fa e non sono contro la caccia. Non ci vado più perché in questo momento ho altro da fare, non ho più quell'interesse. A parte che noi si andava per mangiare, non si andava in macelleria che non c'era soldi. Ma non sono contro la caccia. Meno male. No, no. Ogni tanto serve cacciare o no? Cioè... Ma no, guarda che fare come Hemingway che andava in Africa a sparare agli elefanti come sparare al pirellone, no. E nemmeno per le pellicce, però la caccia è una cosa che hai nel sangue geneticamente, come il colore degli occhi. Ora io non mi voglio attirare l'ira dei protezionisti, no, vai, vai. Però sì, la caccia fatta, un per chi che prima di morire sull'Himalaya disse: solo chi non sa la passione cosa è non può capire. È facile puntare il dito. Io non gioco a golf, ma non dico mica che il golf è uno sport da cretini. Vabbè, a golf diciamo uno può dire non si ammazzano delle persone, degli animali. Ma allora proibiamo tutto, anche le automobili, perché ammazzano il lavoro, l'alpinismo, proibiamo tutto. Lo dica agli animalisti, lo dica agli animalisti. La condizione per morire è essere vivi, e può capitare nella caccia. C'è gente che è morta facendo l'amore, allora non scoppiamo più nessuno. No, però qui non si parlava di scopare. Loro dicono, siccome sono animali, non devono essere uccisi. Poi naturalmente ammazzano anche le formiche. Poi questi gli stessi, che conosco io un paio, permettono il genitore in ospizio per andare in ferie. Mi sono rotto il cazzo di questa retorica fasulla. Parenzo, bisogna comportarci anche. Volevo chiedere a Corona però una cosa, ma l'uomo quanto ci ha messo del suo nella vicenda di Genova, l'uomo? Ma tutto. Tutto, adesso pure la natura avrà la sua. Un po', bisogna dire che un po' è cambiato il clima da Mediterraneo a tropicale, questi uragani, ma lì è stato cementificato tutto, non si è chiusa la via dell'acqua. Allora, e la terza o tre anni fa, continuiamo a fare le stesse. Allora si sa che lì succede questo, apriamo la via a costo di abbattere palazzi e ponti. Come? No, ma non si può, apriamo la via, d'accordo, bisogna aprire la via. L'acqua, perché l'acqua ha bisogno di sfogo, se no cresce. Qui hanno messo un muro e l'acqua è cresciuta, ha fatto 2000 morti. E i politici che devono fare a Genova? Si devono dimettere tutti? I politici, intanto il sindaco non avrà proprio tutte le colpe, ma eticamente deve dimettersi. È stato segnato, è come una mela che è stata colpita da un chicco di grandine. Ormai è stato segnato. Allora l'etica, che non è data dall'estetica, da come si veste, ma là ormai si è tirato con come dei magisti, devono andare via. Dire: io ho fallito, lascio il posto a uno che provi a fare meglio. E adesso lì bisogna coinvolgere tutte le forze di denaro, di tutto, a Genova, risolvere una roba alla volta. Ora si risolve Genova aprendo la strada all'acqua e rifacendo le cose e i soldi cosa fanno? Siccome sanno che le tragedie sono scordone, si dimentica, cincisca bibi, e fra 3 anni, perché la natura mai si ricorda, diceva Pessoa, e perciò è bella, Pessoa, ci saremo sempre lì col morto, anche 2, anche 3. Parenzo? Volevo dirti che su questo ha ragione, secondo me Doria non ha grandi responsabilità perché è l'ultimo arrivato da 2 anni, quindi non è che può fare chissà che cosa. Beh, però dal 2000, ormai si è guastato come immagine. Lui ma mi interessa tornare su un'altra cosa con Corona, perché se io non ricordo male, lui addirittura, io ho anche un video straordinario che una volta volevo mandare in trasmissione quando eravamo insieme, dove lui addirittura ha insegnato ai suoi figli a uccidere un cervo con le mani. Cioè, a costruire una trappola senza cartucce, perché se per caso uno si trova, se dovesse diventare una carestia, 3/4 del pianeta, siamo 7 miliardi, bene, 6 creperebbero perché non sa catturare una pesce con le mani, un uccello, un Ma speriamo di non dover tornare, scusa, all'età della pietra, ad avere bisogno di cacciare le persone, scusami. No, non volete di cacciare gli animali. Allora, imparare l'arte e metterla da parte. Ecco, lei sa accendere, Cruciani, un fuoco senza accendino? Ma figurino, non so fare un cazzo. Allora, tu sarai uno dei primi che crepa con grande gaudio degli italiani. Tiè, ma quale crepo? Ma speriamo di non avere mai bisogno di ma chi l'ha detto? Ecco che fai l'errore di Genova. Ma dai, ma di Genova. Perché? Ma chi l'ha detto? Metti che ti perdi in un bosco, che vai fuori strada con l'altro, Dio ti protegga. E se sei lì mezzo congelato, con cosa fai fuoco? Ma chi si perde? Ma chi ci va nel bosco? Ma capitale, brutto coglione. Ma vado sempre con qualcuno che è più capace di me. Sei un inetto. Quello non c'è dubbio. Io, essendo consapevole di essere un inetto, ovviamente non ti auguro che ti capiti. No, però una lezioncina ti andrebbe bene. Però scusami Mauro, essendo io consapevole di essere da questo punto di vista un inetto, allora a quel punto mi faccio sempre accompagnare da persone che sono più pratiche di me. Da solo col cazzo che ci vado. Tiè, col cazzo che mi vado in un bosco. Cruciani, quante volte hai guidato da solo? Beh sì, tante, non c'è dubbio. Ti ricordi il caso di Gerry Scotti che uscì di... No, Gerry Calà, scusate. Sì, sì. Che uscì di strada, poverino, e lì non ce la faceva uscire a tirarsi fuori con il rischio di morire assiderato. Vai, adesso non esageriamo. Ma può capitare, sì. Vabbè, ho capito, se capita creperò, che te devo fare? Faremo festa tutti quanti. Ma Grillo ha fatto un flop secondo te al Circo Massimo? Un flop. Clamoroso, un flop. Non proprio clamoroso, ma non all'altezza delle aspettative. Grillo ormai deve imparare che è finito il periodo delle eclatanze verbali e delle furie, e adesso deve dare prove. E soprattutto a sottovoce. Perché l'italiano non è un popolo molto intelligente, diceva Oscar Wilde, e perciò pigro, ha bisogno di prove. Lui si affeziona subito. Il colpo di fulmine, però poi deve essere corrisposto. E quindi è in una fase delicatissima, Grillo. Basta con quella voce, italiani! Basta. Fatti sottovoce. Fatti e non chiacchiere. E non chiacchiere. Allora, un'ultima cosa che mi ha preoccupato, Parenzo, è quello che ci diceva prima Corona, ed era sulla cosa del sesso. Perché hai smesso di fare sesso? Non ho capito. Scusa, ma che vuol dire non sei più capace? Non ho capito. Impotente, mi dichiaro impotente. Ma no, impotente, Mauro. Allora vuoi provare? Vieni su che provo a sperimentarmi. No, per carità, io non sono omosex. Ma scusa, avrei una... prima che eri ambisex, non l'hai detto prima. Ma no, ma avrei una donna, una moglie, qualcosa, una fidanzata. Che... Ma se non ti fidi che Corona è impotente, vieni su. Ma no, ma che vuol dire impotente? Dai, su, Mauro. Ma quanti anni hai? Mica allora, ti regalo il devo... Io ne ho 64, ma ho speso la vita in alcolismi e fumo e insomma mi sono dilaniato. Ho capito, ma a 64 anni non si tromba più, una cosa drammatica. A 64 anni conosco della gente che ogni giorno bolli. Guarda, sto così bene senza più cimenti amorosi, che Dio mi dia la grazia di continuare così. Ah, tu dici si sta meglio alla fine. Ma per qua non devi lavarti, farti la doccia, dirgli che li ami, che li vuoi bene, è un sacco di vantaggi essere impotenti. Ma sì, però manca la bestialità sessuale, la presa. Ho dato prima. Hai dato prima, cioè tu dici di avanzo. Alla fine impotenti si sta meglio, quando uno proprio... Io sicuramente. Non, vabbè, ma avrai un po' di appetito. Secondo me anche per te. Di appetito così. Sessuale, ce l'avrai. No. Non hai più appetiti sessuali. È stata talmente impegnativa la battaglia amorosa della mia vita, è stata talmente dilaniante, poi quelle che ti dicevano ti amo mi rendevano la vita un lavoro usurante. sono pacifico, finalmente. Che respiro. Bello, che bello, che bello, che bello. Anche a te, cazzi vostri. Ma perché? Io non ho capito, ma perché dovrebbe capitare anche a me, Parenzo? Non ho capito perché. Capiterà, così finalmente ritroverai chi sei, riuscirai a riscoprirlo senza questi appetiti continui. Ma che ne sai dei miei appetiti continui? Ma che ne sai? E quindi invece senti Corona come serino anche. Ma che ne sai? Non sai più nulla della mia vita, non dormiamo più insieme, non sai più nulla, non sai quali sono i miei appetiti, chi frequento, chi non frequento. Che ne sai? Potrei anche essermi fidanzato e non lo sai. Potrei essere diventato monogamo e non lo sai. Ma questo è impossibile, vorrebbe dire che Gesù sarebbe morto dal freddo. Non è possibile. Ma dai, come non è possibile? Dai, su. È contro natura, è come se il cupolone fosse una moschea. Ma no, ma dai, Corona, lei quando faceva era fedele o no? No. Mai stato fedele, per carità. No, no, non sono mai stato. Ma la fedeltà è contro natura. È contro natura la fedeltà. Ma senta un po', questa cosa del tradimento è una roba obbrobriosa. Tradimento che uno vive. La vita è breve. Bravo, difficoltosa. Bravo, bravo. Queste sono cagate. Bravo, bravo. Il tradimento non esiste, è solo una questione di affetto. No, esiste la persona. E so che andrò contro tutti questi moralisti perbenisti, pacchettoni e baciapile. Esiste la persona che vive. Confesso che ho vissuto, disse Neruda. E quindi no, adesso andare a stuprare. Ma se capita, che cos'è questo tradimento? Ma dove sta? L'hanno dichiarato altri. Cioè, se capita, un'altra donna te la fai anche se sei fidanzato o sposato, dici tu, no? Ma sicuro. Ma certo, Parenzo, impara da Corona, no, impara. Figuriamoci. Impara, non fare il moralista, impara. Lo sai che Parenzo Mauro vuole multare i clienti delle prostitute, Parenzo? Questa è l'ennesima, non so come definirla, ma questi che vogliono fare la legge di multare i clienti, magari sono i primi a frequentarli, come quel politico che era contro le prostitute lo beccarono con tre o due. Io sono a favore dell'apertura dei bordelli, ovviamente. Anch'io! Mi pongo il problema delle ragazze sfruttate, sottoposte al racket degli albanesi e quant'altro, sfruttate, messe in strada, picchiate e obbligate a prostituirsi. Allora, siccome mi pongo il problema di quelle ragazze, che per l'80-90% sì, quelle che vedi in strada... C'entra, non concentra. Multando il cliente, rovinando magari la reputazione della famiglia che risolve il caso. Dai. In attesa. Ha ragione Corona su questo. Ma lo sapete voi, quelli che fanno queste leggi del cazzo, no? Una legge idiota, che può esserci qualcuno che è timido, che non ce la fa avere, allora quello non deve mai scopare in vita sua. Certo, uno che è timido, uno che magari ha dei problemi, eccetera. Io non sono leghista, ma do ragione a Salvini quando dice aprire i casini e farle pagare le tasse. Ciao Mauro, grandissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Come rimandare l'appuntamento a questo punto, Parenzo? 20:17 con Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. Rosaria Milano, poi Franco, scusami Franco, ma devo dare la precedenza a questa signora. Rosaria, signora, signorina, amica. Io questa trasmissione la sento da 14 anni. Sì, no, e questa trasmissione non esiste da 14 anni. Da 10 anni. Nemmeno, quasi 9. Va bene, sì. Comunque lei, ecco, essendo così maiale, facci sentire alla sera. Sì. Essendo così maiale, lei ha dato per scontato che io sono così maiale. No, comunque... lei è maiale perché ci fa sentire tutte le sere le sue preferenze. Non è possibile che io noi Radio 24 è diventata radio porno, ma i suoi responsabili, facci sentire queste cazzate qui alla sera, era una bella trasmissione, lei l'ha rovinata, tant'è vero che io non so quante gente ancora l'ascolta. Signora, lo sai che la sua voce così incazzata mi fa quasi, mi carica tantissimo. Ma lei è maiale, ma che cazzo ce ne frega noi che lei le piace sentire? Ma lei si rende conto? Sì, ma no, che messaggio vuole dare agli italiani? Io ecco, io ieri sera pensavo lei, sì, ho detto, ma Cruciani, qual è il messaggio? Nessuno, un messaggio che lei vuole dare di destra, di sinistra, di centro, che le piace su, che le piace giù, ma a noi che cazzo ce ne può fregare? Ma continui a fare la sua bella trasmissione che ha sempre fatto con quell'altro lì piagnisteo lì che c'è vicino, se veramente... Lei deve parlare di amore, di fiori, di colori. Scusi, di ma lei. Abbiamo i problemi in politica, abbiamo quei deficienti che ruppano tutti i giorni. Ma non ha visto a Genova che cosa è successo? Scusi, ma lei ha un orgasmo vaginale o clitorideo, signora Rosario? Lei ce l'ha nella testa l'orgasmo, ecco perché lei è un maiale. Un maiale è lei. Ma scusi, ma lei ha un orgasmo vaginale o clitorideo? No, io dentale, ce l'ho dentale. Ma questo è buono, dentale non è male però. Mamma mia. Mamma mia, come lotta la signora, come lotta. Guardi, lei è veramente lotto, ma io ieri sera l'avrei sbranata. Ma lei lo sa che messaggio dà a tutti quegli uomini che diventeranno tutti froci come lei? Ma perché? Cosa c'è? Non c'è un legame, no, questo si può criticare tutto, ma non c'è un legame diretto, questo non si può dire. Comunque questa è numero uno, perché lei fa sentire queste cose. Siamo top totale. Tipi da Zanzara. Bene, Andrea Milano, signora numero uno, Rosaria numero uno. Vai. Buonasera Cruciani, solo una cosa, volevo dire una cosa al signor Parenzo che difende sempre con prima l'intervento dell'onorevole Giarrusso, napoletano. Parenzo, sai Napolitano nel 56, durante la rivoluzione ungherese, cosa fece? Che fece? Durante la rivoluzione ungherese, nel 56. Napolitano era uno dei capi del PC in Italia, se non sbaglio. Era il principale della circoscrizione est e gli chiesero un parere sull'omicidio di 2 milioni di ebrei che i russi fecero in Ungheria. E Napolitano disse: perfetto, ha ragione, perché sono li taccio oggi un certo aggettivo che adesso non ricordo, però dice: ha ragione, diede il suo placido consenso all'omicidio di 2 milioni di ebrei. Stai dicendo che Napolitano nel passato, essendo stato comunista, è stato zitto su molti crimini comunisti, che sono stati commessi nei confronti degli ebrei. Disse sì perché glielo chiesero. In questo caso bene. Adesso andremo a recuperare questa cosa. In questo caso hanno fatto bene. Capito? Hanno fatto bene ad ammazzare gli ebrei, gli ungheresi, i comunisti ungheresi, questo disse. Bravissimo, disse Napolitano. E dunque Parenzo, perché dovrebbe conoscere questa cosa? Perché, no, perché tu dici, avendo in simpatia Napolitano, non dovrebbe, invece non dovrebbe, dovrebbe attaccarlo. Primis non dovrebbe essere il nostro Presidente della Repubblica. Vabbè, adesso questo non esageriamo, dai, su, che cosa c'entra? Non dovrebbe essere moralmente discutibile, accettamelo, dai. Ma moralmente no. Qualcuno ricorda ancora il passato comunista di Napolitano e dice che è moralmente discutibile, se ne può parlare, però insomma, per me è acqua passata. Però, secondo te un personaggio come Napolitano, che comunque ebbe una rilevanza nel PC, a un certo punto Berlinguer ritornerebbe alla tomba, dal governo a Monti e al sistema bancario. Vabbè, ma adesso vuol dire questo? Secondo te una bustarella, qualcosa non è arrivata? Guarda, adesso a parte le bustarelle, ma Napolitano a un certo punto era considerato la destra del Partito Comunista, ti vorrei ricordare. Vabbè, esatto. Parenzo, come vuoi rispondere a questa cosa? No, volevo dire a questo simpatico salame imbottito che Napolitano. Adesso non parlare di salame imbottito, perché che ti ha fatto? Ha espresso le sue idee. Questo simpatico salame imbottito ha detto delle cose sciocche, cioè non ricorda uno che Napolitano è stato il fondatore della corrente dei miglioristi. Vabbè, ma adesso lasciamo perdere, dai, sì, questo l'ho già detto io, forse. Da sempre uno del PC, tra i più grandi amici di Israele, peraltro. Quello che fecero gli ungheresi agli ebrei è noto, ma Napolitano, virgola, non c'entro cazzo, punto esclamativo. No, ma vuol dire, il passato delle persone va sempre ricordato. Il passato dei partiti comunisti comunisti d'Europa è stato terribile. Ma va sempre ogni tanto va ricordato, però. Ogni tanto va ricordato. Non capisco cosa c'entra il ruolo dei partiti comunisti. A lui non piace Napolitano, non è che si può scegliere il Napolitano degli ultimi 30 anni. Lui sceglie anche il Napolitano. A lui giustamente non piace il partito comunista ungherese, neanche a me, come non mi piaceva quello russo, però, come non mi piaceva quello di Tito. Vabbè. Ma andiamo avanti, andiamo, Vittorio da Milano, andiamo avanti, Vittorio. Salve Cruciani, no, volevo dirle per quella cosa che ha chiesto a Parenzo di chiedere scusa alla Vanò, ai Vazzanicchi, no? Non mi ricordo, ecco. No, dico, non lo faccia Parenzo, perché già con Aiva Zanicchi abbiamo fatto delle figuracce in Europa per le sue assenze, 98% di assenze. No, 98 non c'è mai arrivata, sì, credo. Comunque. 98. Può darsi. Assenze, allora? Eccetera, eccetera. No, volevo dire che Ebola non arriva con gli emigranti, con le barche a Lampedusa, perché... Potrebbe anche. No, non potrebbe, perché ci impiegano un mese per arrivare dal Mali, dalla Liberia, per arrivare in Libia. Ebola ci vogliono 10 giorni di incubazione, quindi è impossibile. Cioè, lei dice che è impossibile, tu dici comodamente con degli aerei, degli aerei di linea, quindi non con gli emigranti. Ecco, Salvini sia tranquillo, non arriveranno. Cioè, tu dici, stai dicendo, Vittorio, che con l'immigrazione via barconi l'Ebola non arriverà mai. Non arriverà mai, perché ci impiegano più di un mese per arrivare, attraversare tutto. Muoiono nel deserto, no? Moriranno nel deserto, poveri, se sono. Quindi stia tranquillo, arriveranno solo con gli aerei, e si è visto, arrivano comodamente con degli aerei. Grazie, grazie Vittorio, grazie. Per quello. Grazie. Gino Paoli e l'amore, mia moglie, sentite. Io ho continuato a badare a mia moglie per anni e anni e anni, alla mia ex moglie, pur avendo altre storie che mia moglie sapeva perfettamente. Cioè, quindi c'era una condivisione di... Una condivisione, certamente. Totale. Mia moglie aveva il suo fidanzato, ma ce l'avevo io, non ho capito. Ma che numero uno è Gino Paoli? Ma che numero uno è assoluto Gino Paoli? Ma un numero uno, personaggio fenomenale da questo punto di vista. Senti questa cosa qua, amerei le donne anche... Le donne? Le donne sono l'altra faccia della luna. Però vedendo... Le donne io le amerei anche se non avessero la pucchiacca e le tette, non me ne frega niente. Le donne le amo lo stesso, perché sono l'altra faccia della mia personalità. La pucchiacca sarebbe gli organi genitali femminili, insomma. In sostanza, no? La fica. Ciro, provincia di Salerno. Ah, uè, Cruciani, dimmi. Io ti ascolto sempre da un anno, che mio padre mi dei tormenti. Io stamattina ti ho nominato a te e a Parenza. Stamattina perché? A Battipaglia. Sono passato una volta i campi rom, una volta sì a Campano, dove stanno i campi sportivi, dove ci stanno ancora. Ma adesso si sembra slogati anche in pieno centro. Sì. E mamme che... in pieno centro, piazza centrale. Ma dove? In che città? A Battipaglia. Stanno anche in centro, che vuol dire? Che stanno, hanno messo le tende in centro? Un furgone alle spalle di piazza Madonnina. Vabbè, ma ci saranno 3-4 Roma, quanti sono? Che facevano? Il tipo che tanti si erano alzati in pigiama con la carrozzina, che si faceva la barba, i mamma e famiglia. Perché non l'hanno cacciati? Hai visto, da noi al sud... cioè, ma anche io questo ho detto, se c'è da Cruciani alla faccia delle cooperative, ma che cazzo ti vorrei dire io? No, ma non ho capito bene, fatti capire, però cerchiamo di parlare una lingua comprensibile. A me non mi danno fastidio, io non sono razzista. Fin quando non danno fastidio, non rompono i coglioni, come dice. E che fastidio davano a Battipaglia? Che fastidio? Ma è meno il pieno centro, ti fai la barba, bello che scendi. Stavano lì a farsi la barba in pieno centro. In piena piazza. Ma come facevano a farsi la barba? Che c'erano la roulotte, l'acqua? Che c'erano le... Sì, dove sta la posta? Stamattina dice volevo fare una fotografia, che la volevo mandare via web. E perché non me l'hai mandata? È che non tengo la fotocamera sul cellulare. Siete una bella coppia comica, non vi posso passare mio padre. Perché... Tuo padre? Chi è tuo padre? Farenzo, ci facciamo passare il padre, che dobbiamo fare? Vediamo, sentiamo il padre, il padre di Ciro. Pronto, Giuseppe, un saluto veloce. Ciao, chi sei? Il padre di Ciro sei? Sì, io sono un vostro grandissimo. Ma anche tu hai visto i Rom a Battipaglia? No, solo lui, io ero a casa. E che mestiere fai tu? Che mestiere fai tu? No, io sono pensionato. Sei? Pensionato. Ah, pensi, e Ciro che fa invece? Fa l'operatore, l'assistenza domiciliare. Che vuol dire? Assiste gli anziani nelle case, diciamo così, per conto di una cooperativa. Vabbè ragazzi, vi saluto, va. A tutte le sere vi ascolto vabbè, molto. Grazie Ciro, okay, vabbè. No. Ciao. Buona serata. Non è che è Radio Battipaglia questa però, dove si fanno i cosi, ciao. Buonasera dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei una corte sfilata. Allora, ieri sera, Parenzo, alla gabbia ho visto un servizio sul CNEL, come sapete. Ho visto ieri sera battagliare moltissimo. Sì, insomma, ho così visto così. Difendere quel signore con quel maglione anche d'estate, cioè Marchionne. Marchionne, beh, certo, ma scusa, come si fa ad attaccare Marchionne ancora con le stesse argomentazioni? Un uomo che ha salvato la Fiat. Guarda, lo dici proprio oggi, che è la giornata in cui c'è stato il terzo schiaffo di Marchionne, per cui la Fiat non si quoterà più in Italia. Certo, ma soltanto la Fiat ha il diritto di fare il cazzo che vuole, smettetela. Siete diventati, come diceva Mughini ieri sera, siete diventati tutti quanti capitani d'industria, siete diventati tutti quanti manager, tutti in grado di gestire la Fiat. Marchionne è un grandissimo, è il numero uno assoluto, ha salvato una qui, ma chi se ne frega, chi se ne frega, tutto il diritto di pagare le tasse in Svizzera. Tutto la il diritto. Della società in un altro paese, non è un'azienda italiana. Ha fatto benissimo, il problema è dell'Italia. Si paghino meno tasse in Italia e le aziende verranno qui. Siccome si pagano meno tasse all'estero, la Fiat ha tutto il cazzo del diritto di andare all'estero, capito? E in più non è più nella cazzo della borsa italiana. Benissimo, anche lì, benissimo, ottimo, stupendo, ottimo, meraviglioso. Certo che l'ho letto, certo, ottimo. Se ti piace così. È una multinazionale che fa quello che vuole. Il problema è l'Italia cambi, faccia pagare meno tasse. E allora arriveranno le aziende che prenderanno la residenza a Palermo. Certo. Basta con questa storia. È l'Italia che deve cambiare, l'Italia. Marchionne. Ma tu lo puoi chiamare e prendere per il culo come vuoi. Ma io, guarda, preferisco Della Valle e Cucinelli, te l'ho detto mille ma volte. Ma chi se ne frega, ma sono cose diverse. Smettila, Della Valle è un proprietario, Marchionne è un manager, sono due cose diverse già. Non mettere insieme, non mischiare cose che non c'entrano, dai. Questo non c'entra assolutamente nulla. No, c'entra, nulla, come non c'entra? Mica decide lui di dare i soldi agli operai, come dici tu, di Cucinelli e di Della Valle, no. Decidere questo, ad decide esempio, la proprietà, decide la proprietà. Decide di licenziarli, ma non di dargli più soldi, giusto? Oh, mamma mia. Che noia, però. Che noia. Decide di licenziarli, ma non di dargli più soldi. Allora, ieri ero alla gabbia e ho visto l'ennesimo reportage sul CNEL, che non è scomparso, come ha promesso Renzi. Il problema, naturalmente, non è colpa di Renzi, che ha incardinato la cancellazione del CNEL all'interno della riforma costituzionale. Dunque, ci vuole del tempo, amici miei. Sia chiaro che ci vuole del tempo. Anche quelli che dicono poteva stralciare questa cosa, portarla fuori, farla approvare insieme ai 5 Stelle, puttanata, ci sarebbe voluto del tempo ugualmente. Poi non si fanno due percorsi diversi. Però c'è una cosa che poi Parenzo ve la dirà, è molto importante questa. Intanto sentiamo, che ne so, Mazzano, il presidente. I segretari generali vengono quando possono. Ho capito, però prendono lo stipendio. 25.000 euro all'anno. Sa quanto è al netto? Ma sono soldi pubblici, 1.300 euro netti al mese. E lei lo sa che un insegnante prende 1.300 per andare tutti i giorni male, a lavorare? Male che proprio così l'insegnante, ma non si capito, può dire che 1.300 sono uno stipendio. Quando posso, partecipo, quando non posso non partecipo. 2012 11 assemblee, 11 assenze. 2013 12 assemblee, 12 assenze. Fosse un dipendente sarebbe licenziato. Sì, ma io non sono un dipendente. Però prendo, no, prende 25.000 euro lordi all'anno, che trasferisco alla UIL. Ma la UIL, alla UIL, se vuole dare dei soldi alla UIL deve dare i soldi suoi, non i soldi pubblici. No, no, i soldi che derivano dal CNEL, che sono soldi pubblici, che sono soldi pubblici, lei li trasferisco ma alla UIL. Ma uno non partecipa a un'assemblea, non è il caso di dimettersi? Lo scandalo continua, comunque, lo scandalo continua. Beh, Davide, cosa si può fare? Perché no, il CNEL scomparirà quando dovrà scomparire. Però in attesa che questo iter lunghissimo arrivi a destinazione, questi simpatici signori intervistati anche dai signori della gabbia l'altro giorno, una cosa la potevano fare, potevano dimettersi immediatamente, perché tanto non fanno un cazzo. Perché loro, se si dimettono, dicono... se prendono i gettoni e trasferiscono i soldi alla UIL, col cazzo che si dimettono. Questo è grave. La cosa vera è vero che ci vuole tantissimo per abolirlo, perché c'è la legge costituzionale, parabile, certo, due volte, ma questi qui, volendo, sono furbi due volte, invece potrebbero dimettersi immediatamente. Certo, dovrebbero dimettersi immediatamente, visto che tanto saranno, perché devono aspettare l'ultimo giorno, perché in cui... vogliono prendere i quattrini fino all'ultimo secondo, tutti, dal presidente fino ai consulenti, capito? Sai, quelli che sono dentro la piscina, che stanno affogando la mano lì, che spingono ancora, l'acqua li sta sommergendo, no? Loro sono ancora lì col dito, no, fino all'ultimo. No, perché sperano magari in un colpo di scena, sperano in un miracolo, che magari il CNEL resti. E continuano a percepire lo stipendio, soldi, consulenze. Ma in questo caso la colpa non è di Renzi, perché Renzi la sta abolendo, certo, ci vuole il suo tempo, non è che ha la parte. Per forza, purtroppo l'Italia tu è irriformabile, la Costituzione, che qualcuno dice la più bella Costituzione del mondo, ma è una cosa ridicola. Beh sì, lo è stata. Ma quale bella, quale bella. Il vero blocco dell'Italia è la Costituzione. Uno dei problemi dell'Italia, no, è la Costituzione che abbiamo. Come no? Ma non diciamo a parte le libertà, ovviamente, queste robe qui. Vabbè, ma quello è chiaro. Quello non è chiaro. Diciamo cose non vere, perché no. la prima parte è straordinaria, per esempio, è una Costituzione di garanzie. Vabbè, diritti, ma quello è chiaro, libertà. Ma quello è chiaro, nessuno dice nulla. E allora non dire cose non vere. Sto dicendo che c'è una parte consistente. Non è la Costituzione che l'ha bloccato, sono le leggi che hanno fatto dopo che hanno bloccato tutto. Non va bene, sentiamo Claudio da Latina, anche la Costituzione. Sentiamo Claudio da Latina. Pronto, vai Claudio. Ciao, siete grandissimi ragazzi. Senti, un piccolo appunto. Voi parlate tanto delle adozioni gay, etero gay, ma qualcuno di voi sa quanto è facile adottare un bambino oggi? Sì, è molto complicato, certo. Quanto costa adottare un bambino? Molto, molto complicato, tutto molto complicato. Che cosa parliamo a fare di risolvere un problema se il problema sono che le adozioni non si danno? Io vorrei adottare un bambino e non ho 40.000 euro. Questo è il problema. Poi che sia etero, che sia omosessuale. Sì, ma l'adozione non può essere una roba semplice alla carta, così che si fa in 4 e 4 8. Ma non è allora no. Che. Però no, è troppo complicata. È troppo complicata. E probabilmente costa troppo. Caro Cruciani, no, Claudio, 40.000 euro è semplice. Ti sto dicendo che probabilmente è troppo cara, ma nello stesso tempo è anche eccessivamente burocratizzata ed eccessivamente complicata. Ti fa informare Parenzo, con 40.000 euro è semplice. Vabbè, ma è questo, confermi quello che ti sto dicendo. Con 40.000 euro è semplice. Allora oggi i bambini, lo sai chi li possono adottare? Chi c'ha i soldi? I ricchi. E basta. No, poi sono anche eterosessuali, sono anche omosessuali. Non importa. Importa se c'hanno i soldi. Allora, questo è quello che c'è oggi in Italia, quindi cambiamo questo, e poi una volta che abbiamo cambiato questo, e allora cominciamo a fare le lotte su etero, uomo. Sì, però scusi, io sono d'accordo, ma lì si vuole stabilire semplicemente un principio. Io per esempio sono d'accordo, Parenzo ha ancora un po' di dubbi sulla questione dell'adozione. Si vuole stabilire un principio che sia complicato, costoso, questo è un altro discorso. Il principio è: possono o non possono adottare due uomini o due donne? Secondo me sì, secondo lei no, secondo altri no. È il principio. Tu non puoi quello a ragionare su un principio, e lo stato di fatto è che oggi non è impossibile per una persona normale adottare un bambino. Ha ragione. Questo è il principio, cioè questo è lo stato di fatto. Quindi tu puoi ragionare sul principio, ma lo stato di fatto, una volta che tu hai ma su quello siamo anche d'accordo. Ma e allora combattiamo su questo. Io ho una famiglia, ho due figlie, vorrei adottare un terzo figlio, non me lo posso permettere economicamente, ma non ho 40.000 euro da parte. Questo è il principio su cui dobbiamo combattere. E allora questi poveri bambini che stanno negli orfanotrofi italiani, che non possono essere adottati, te li danno in affido e dopo due anni te li tolgono. Grazie Claudio, grazie. Grazie a te, ciao. Da Firenze. Poi c'è anche da considerare un'altra cosa tra le notizie del giorno, Parenzo. Beh, in Belgio, magari ce ne occupiamo nei prossimi giorni, c'è una grandissima polemica sul ministro della salute. Il ministro della salute, che è francamente una persona obesa, è una persona obesa, non c'è poco da fare. Una persona, basta vederla. Lui dice francamente, è una persona oggettivamente obesa. Obesa? Senza francamente, cioè è oggettivamente. E molti dicono. Beh, può essere obeso un ministro della salute? Cioè, dà un'immagine positiva di come deve essere una persona, un ministro così in carne, diciamolo, obeso? Lei risponde in questo modo: penso che queste osservazioni siano sciocchezze. Alla Camera i miei colleghi non mi giudicano in base al mio aspetto fisico, ma mi fanno i complimenti sulla conoscenza che ho dei miei dossier, che sicuramente è vero. Perché, scusami, io devo dire la verità, sono dell'idea che chi se ne fotte. Cioè, una persona può essere obesa, può avere dei problemi di questo tipo, se se li sente ovviamente, perché se non se li sente i problemi non esistono. Non ho capito perché non può fare il ministro della salute una così. Guardatela, andatela a vedere, ministro della sanità belgio, compilate, andate lì su web se siete collegati. È oggettivamente una persona molto molto molto in carne, addirittura la si può definire obesa, adesso non so bene il peso esatto. È anche medico tra l'altro, eh. Vabbè, Emilio, Firenze. Pronto? Sì. Oh, ciao Luciani. Ci siamo sentiti tempo fa per l'amico fra virgolette Parenzo. Scusa, Borghezio, scusa Parenzo. Vabbè, vai però, Emilio, vai. Sì, io ho telefonato perché non condivido il tuo modo di vedere la famiglia, perché te non te ne frega nulla della famiglia. Non è più ma io non ho detto questo, non me ne frega niente. Ho detto che non è. No, ma io non sono affatto contro gli aiuti. Ho detto che non esiste solo quello, cioè non esiste solo quello. E non è la sentina di tutto il di tutti i beni possibili immaginabili. Cioè, non è la. La famiglia è alla base, perché se i figli vengono cresciuti bene, dopo si troveranno bene nella vita e si comporteranno bene. Comunque io nonostante siamo separati, e lei moglie, si sono fatti su bene figlioli, e sì, anche se sono indipendenti, però insomma ci siamo sempre noi dietro, quando hanno bisogno e tutto. Comunque ho chiamato in particolare perché per questo signore Corona lì, no? Io posso capire, mi dispiace che lui ha avuto un'infanzia disastrosa, no? Certamente lui dice bisognerebbe levare bambini a genitori perché gli fanno più danno che bene, no? Ora io capisco che piuttosto si danno a due gay. Ora lui, se gli ha avuto un'infanzia in quel modo, la sua mamma li ha abbandonati, lui e suo fratello da bambini, il suo babbo gli frustava, gli legava, gli dava le loro di vicino, e ci crede lui e dice leviamoli a genitori. Ma insomma io penso sia una minoranza infinitesima quelli che trattano così o così male. Vabbè, però ha detto una cosa fondamentale, cioè non è che necessariamente la famiglia tradizionale incarni tutto il bene possibile immaginabile, eh? Cioè comunque cioè, in tutte le cose c'è bene e male, però nella famiglia tenuta bene, cioè che si comportano bene i genitori, no, si sa anche che ci sono tante violenze nelle famiglie, purtroppo. A me io rabbrividisco, oggi mi è venuto il groppo alla gola, ho sentito il telegiornale, qui il nonno si è affogato con il banco, il nipotino poi sì. Però quello sarebbe ora a parte santi, però è bravissimo perché il nonno si è immolato veramente per suo figlio, per suo figliolo, figliolo, per i genitori di questo bambino, perché loro facevano una vita di hacca tutta la vita e quel bambino non avrebbe mai potuto nulla. Va bene, grazie, detto, grazie. Roberto Pesaro. Grazie a te, Roberto Pesaro, vai. Sì, salve. Niente, volevo dire riguardo a Marchionne il comportamento della Fiat. Non a caso la Fiat ha scelto Marchionne, perché il comportamento che ha avuto è stato quello tipico della casa madre, che per anni ha accettato contributi pubblici per poi... Ma ridai con questi contributi pubblici, che coglione! È una cosa ineludibile questa cosa, ha accettato contributi dallo Stato che hanno pagato tutti per decine di anni. Sì, e che doveva fare allora? Fallire? Fallire, no, che cosa doveva fare? La Fiat è già fallita. In guardi, Italia. Se in potesse, la Fiat quasi non esiste più. Se potesse, rinuncerebbe, se potesse, rinuncerebbe a tutti gli stabilimenti in Italia. Secondo me, se resta in Italia con gli stabilimenti che ha, è solo appunto per questi legami. Per una serie, altrimenti, via, via, quando non conviene più, via, via, via. Quando ci sono meno tasse da pagare da una parte, è giusto che una persona vada dove si pagano meno tasse. È un principio fondamentale questo qua, fondamentale. A domani. Lo sai da quando ti avrebbero pestato, preso il calcio in culo e ti avrebbero mandato via se magari non faresti audience? Perché tu fai audience, lo sai perché? Perché dici le cazzate e allora la gente va in bestia, no? E dici guarda questo che cazzo sta di con un network della Confindustria. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Spettacolare, spettacolare.